Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Perdonami per le parole che sto per pronunciare. Nella tua dimora, in questo sacro luogo di venerazione e preghiera. Coglione! Coglione! Coglione! Coglione! Coglione! Coglione! Ha bisogno di qualcosa, signore? No, grazie. Scusi tanto. Facevo dei gorgheggi. Ah. Bella chiesa. Sono utili, li faccio spesso anch'io. Ah. Ma non uso sicuramente quel termine, io preferisco ripetere una serie di alleluia. La lascio solo. All on that day, so I ran to the river. It was boiling. sea. It was boiling around the sea. It was boiling all on the day. So I ran to the Lord. I said, Lord, hide me. Please hide me. Please help me all on that day. He said, child, where were you when you ought to have been praying? I said, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying all on that day. Don't you know I need you, Lord? Don't you know that I need you? Don't you know that I need you? Era veramente da un po' di tempo che ci stavo pensando, era tanto tempo, avevo paura di farlo, ma poi forse il coraggio me l'ha dato il brano, già di per sé abbastanza lungo, estratto da Short Bus, che ho messo nella terza parte di Eclettica di questa settimana, e così mi sono deciso di trasmettere la lunghissima Sinner Man da parte di Nina Simone. Come vi dicevo nella terza parte, che Short Bus si conclude però con un orgasmo della protagonista, di uno dei protagonisti del film, un lieto fine che non mai ti saresti aspettato. In questo caso invece il film si conclude con un orgasmo della sala, perché è un lento crescendo. Nuovo Mondo di Emanuele Crialese è uno di quei film che non vedevo da tanti anni. Vedere una sala che sempre di più si fa trasportare alla fine, quando partono le note di Sinner Man, come se appunto fosse l'orgasmo del pubblico, un applauso che parte in sala. Per un film era veramente tantissimo che non vedevo tale esplosione di passione. E sicuramente le note di Sinner Man che noi ci siamo ascoltati da parte di Nina Simone in questo aiutano nella scena finale, nel latte. Nina Simone che compare anche con Feeling Good, il brano che è stato riportato in auge da parte dei Muse qualche anno fa. Un bel film, andate a vederlo. Vi ho consigliato due film, oltre che farvi ascoltare quattro matrimoni è un funerale di cui ancora manca uno spezzone, proprio quello finale, no? Visto il film, quello spezzone devo metterlo, non posso evitare di metterlo. Vi ho anche già parlato in questa settimana più volte di Demolition, e proprio in Demolition, a inizio anni 2000, passarono i De Flore, duo romano, che esce in questi giorni con un nuovo album per la Subsound Records, e passano anche da Milano, e quindi vi annuncio la data al Transylvania Live il 22 di dicembre. E proprio dai De Flore, dall'album Human Industrial, che già vi ho citato, ci ascoltiamo la prima traccia, quella che lo apre, Emostatico. We'll be right back.

Ma prima vorrei chiederti una cosa. Tu credi che, dopo che ci saremo asciugati, dopo che avremo passato un po' più di tempo insieme, tu saresti d'accordo di non diventare mia moglie? Credi che il fatto di non sposarmi è una possibilità che in qualche modo potresti valutare? Voglio dire, per il resto della tua vita. Vuoi? Lo voglio. Siamo così arrivati anche alla chiusura della penultima settimana di Eclettica del 2006. Ci siamo arrivati con The Blow, una ultima parte composta solo di 4 brani, d'altronde, essendocene uno che durava più di 10 minuti, un altro che durava più di 5 minuti. Alla fine ne sono rimasti altri 2 di lunghezza più o meno normale. E direi che in questa quarta parte abbiamo anche confermato il nome di questa trasmissione, Eclettica. Nina Simone prima, poi il sound, diciamo, industrial dei The Flore, poi la cover di Last Town Chorus con la lap steel guitar e poi l'elettronica dei The Blow. dagli Stati Uniti, che però incidono per la tedesca Tomlab. Queste le quattro tracce dell'ultima parte di Eclettica di questa tredicesima settimana della tredicesima stagione in compagnia di Giulio Caperdoni, che raggiungete all'indirizzo giulio@radiorockfm.com o myspace.com/eclettica. E ricordatevi che aspetto le 10 migliori canzoni del 2006 al mio indirizzo. Alla prossima!